Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giovedì 24 marzo 2011, buonasera da Agostino Spolaore, che assieme al mio ormai inseparabile, ciao. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori, sono sempre qua, anche ieri sera, sono qua stasera, ma con molto 24 piacere. 24 ore dopo ti rivedo, esatto. Fossi una bella donna magari sarebbe stato meglio. Dobbiamo accontentarci. Questa è Blu Radio Veneto, dicevo, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Vi ricordo le nostre frequenze, che sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, se ci volete raggiungere in studio, è il 049 875 6423, o meglio 875 6423, oppure ancora, se ci volete mandare qualche SMS per salutare gli artisti di questa serata così simpatica, si prevede che sia molto simpatica, già ve lo anticipo. Allora, il nostro numero di cellulare è il 346 23 20 033. Se ci volete sentire tramite computer, tramite internet, basta collegarsi nel sito della radio, che è www.bluradioveneto.it, e all'interno della home page c'è un rettangolino rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia piccolina nera sulla sinistra, cliccando lì si sente la radio 24 ore su 24 in diretta. E poi, come lo dico sempre, quando ci sono gli artisti, quando c'è il live, ci sono anche le webcam che inquadrano chi suona, chi canta, eccetera eccetera, e quindi per poterli vedere basta collegarsi nel sito della radio e andando nella recensione del gruppo o della band o dell'artista, cliccando su diretta video andrete dentro a dove si vede appunto questa immagine degli artisti, oppure anche andando su www.direttarockaway.tk. Buonasera Maurizio, quindi diamo la buonasera anche a questi amici che sono, ve le dico già subito, poi diciamo il nome. Allora, Stefano Marzari al basso, ciao. Ciao. Carlo Tonietto alla chitarra. Ciao a tutti. Antonio Cipolla alla chitarra. Ciao, dove devo guardare? Michele Valerotonda come cantante. Ciao, ciao. Tu fai solo il cantante, sì, non fai altro. Suono la chitarra, ecco. Per strada. E poi c'è un amico del sottoscritto, da tanto tempo ormai che ci conosciamo, il mitico batterista, che poi tra l'altro è già venuto qui a suonare con altri gruppi, è Alessandro Arcolin. Hey. Buonasera a tutti. Mitico. Ciao Ale. E poi abbiamo anche il produttore, il fonico, l'arrangiatore, insomma abbiamo il fattotum di questa band, che si chiama Albano Nicola, che è il titolare della Daigo Music, School Music. E quindi loro sono gli Spazi Immensi. Da stadio. Spazi Immensi, stasera abbiamo tante persone, è bello così, tante chitarre, c'è il fonico che è nascosto, ma poi verrà fuori. Nicola, dove sei? Sei nascosto? Sta mettendo a posto le cose. E abbiamo tante chitarre perché all'inizio della band, che è nata nel 2003, quattro ragazzi di Padova, chiaramente. Sottolineerei ragazzi. Dobbiamo sottolineare ragazzi. E hanno deciso chiaramente nel 2003 di fare qualcosa assieme. Erano quattro chitarre, un basso e tre chitarre. L'idea di portare avanti questo discorso poi si è amplificata e finalmente nel 2007 l'idea comincia a far piede, a diventare importante. Com'è nata l'idea importante? Come un'altra idea importante. Sì, esattamente, di far musica, di incidere un album praticamente. Ma far musica è una cosa che è cominciata nell'85, in realtà un po' tutti suoniamo da 20-25 anni, e nel 2007, dopo qualche anno di locali, concorsi, rassegne, abbiamo deciso comunque di mettere per iscritto delle tracce, tante movenze. Sì, in realtà il disco raccoglie pezzi che nascono dall'antichità dei gruppi, più pezzi nuovi, quindi è una grande idea, è la nostra idea, è in pratica la nostra musica da sempre questa. Tanto non abbiamo detto il nuovo disco, si chiama Mille Illusioni. Mille Illusioni. È significativo, non sono mille illusioni, sono cose fatte, giuste, non illusioni, non sono illusioni, musicalmente parlando. No, queste sono cose reali, le illusioni sono quelle che noi ci creiamo per in certi momenti sopravvivere, no? Ah, giusto. Questo è verissimo, una cosa giusta. Inseguiamo queste illusioni, ce le creiamo, cerchiamo di tirare avanti in qualche modo. Questo disco però è molto reale e racconta tutte le cose che abbiamo dentro e abbiamo vissuto e che speriamo poi di vivere anche in futuro in realtà. Certamente, quindi praticamente possiamo identificarlo come una specie di raccolta, di greatest hits delle cose, sì, che avevate scritte, sì, nel corso degli anni praticamente. Sì. Poi registrando sono venuti nuovi pezzi, perché poi quando suoni insieme è vero, si scatenano certe energie che... Il live è live, sì, fa bene, fa, sì, bene suonare assieme, sì, sì, gruppo, sì, sì, soprattutto il gruppo, poi tutto il resto. Quindi me, in realtà il disco è partito con 12 pezzi pronti, in realtà poi sono diventati 16. Esattamente, io ho detto ai ragazzi mentre prima di andare in trasmissione, una band che fa il primo disco fare 16 pezzi, sì, è coraggiosa secondo me, non è semplice. O fare incosciente. O incosciente, o incosciente. È incosciente, ma incosciente e coraggioso possono avvicinarsi secondo me, sai? Sì, il coraggio e la temerarietà sono due cose un po' diverse, comunque. Però in questo caso voluto, possono essere simili. Abbiamo voluto raccogliere quanto avevamo seminato fino a poco tempo fa. Sì, ok. E attenzione, non è successo viene niente. Giù lo studio. Viene giù lo studio, esattamente. Beh, continua poi. Ecco, però non so più che cosa dire. È meglio. Vai avanti tu che sei l'esperto della serata. Già avete capito di cosa si tratta, insomma, questa sera. Sono locali, sono qui di Padova, quindi abbiamo un po' di più confidenza. Però per rendere la cosa più drammatica ho fatto il giro per Conselve. Ah, sì? Sì. C'è un po' di traffico all'estero. Allora, io direi di far ascoltare subito qualcosina. Che dite? Vogliamo far ascoltare qualcosa dal, sì, disco? Cosa avete scelto come brano d'apertura? Abbiamo scelto il brano che si intitola come il nome del gruppo. La title track, come si diceva una volta. La title track del gruppo. Esattamente. Allora, prima lo sentiamo e poi ne, sì, parliamo, che è un pezzo molto interessante. Ottimo. Secondo me, ok? Ok. Cerca della mia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco, nella recensione abbiamo scritto questo, ho scritto io, noi della redazione praticamente. L'inizio mi ricorda luglio, agosto, settembre, nero degli Area, questa contaminazione di voci. E finale è proprio un finale da rock band, assolutamente. Questo finale strascicato, queste chitarre elettriche che strizzano, che danno sfogo. L'idea del pezzo, come è nata questa title track? Allora, è nata in garage. Bene, è un pezzo da garage al limite, al finale è un pezzo da garage. Il tema dominante, l'introduzione è nato al pianoforte. Mm. Poi si è sviluppato come un pezzo blues, perché alla fine è sì, un classico pezzo blues. Che poi abbiamo voluto lasciare con questa veste blues, nonostante l'introduzione che ricorda un progressive. Sì, esattamente. Gli Arik è un gruppo un po' particolare, forse progressive, suo progressive, sì, però un po' al di fuori, un po' al di sopra. Grandissimi gli Arik, ricordiamo, erano guidati da Demetrio Stratos, forse la voce della musica del rock italiano, in tutti i sensi. Okay. Noi abbiamo la voce del rock padovano. Va bene, lo stai, è sempre voce, sempre voce. In ogni caso, quindi l'avete sviluppato così. Sì. Poi, a microfono spento, mi avete detto che l'arrangiamento è stato un'altra parte. Sì, allora, parliamo allora di tutto il disco. Sì, esattamente. Questa descrizione che ti ho dato vale per tutto il disco, perché in realtà nel 2003 ci siamo ritrovati dopo esperienze varie, abbiamo ricominciato a suonare. Nel 2007, incontrando Nicola, abbiamo deciso di registrare. Per registrare tutti i nostri brani, che avevano anche una storia antica, alcuni erano recenti, ma alcuni erano proprio vecchi, li abbiamo spogliati completamente e pian pianino li abbiamo rivestiti, partendo proprio dalla voce, la chitarra acustica, poi è entrata la batteria, poi il basso, poi le chitarre elettriche, altre chitarre elettriche, i colori e poi il loop di computer, il sitar abbiamo inserito in una canzone, per cui bello il sitar, sì, dopo ne parliamo, è molto interessante. È stato molto bello per noi, che era la prima esperienza in assoluto, quindi il vestire queste canzoni, spogliarle prima, che è stato molto importante, perché abbiamo dovuto togliere quello che avevamo, come dire, ormai erano vestiti che ci avevamo incollati al corpo. Abbiamo dovuto spogliarle e rivestirle. È stato molto interessante questo lavoro. Ci sono dei saluti che vi vengono fatti? Ci sei? Pronto? Sì, pronto. Chi sei? Oh, ciao. Buonasera, insegnante. Ciao a tutti. Chi è? Chi sono? Dillo tu, Agostino. Comincia con lei. Io ho dominato. È una carissima amica di questa emittente, una carissima amica mia, è una bravissima artista, canta con i Movi Trio. E dirige un coro di non so quanti elementi, dillo tu perché non mi ricordo. 40 elementi. È una bellissima donna, bellissima. Oh. Gli voglio un bene dell'anima. Soprattutto dentro. Anch'io, si chiama Erika De Lorenzi. Yeah. Ciao Erika. Ciao Erika. Ciao a tutti, ciao. Agostino mi ha proposto di fare questa comparsata. Io su commissione. Ma non dovevi dirlo, scusa. Sono qui solamente ad aggiungere la mia voce, ma questa volta per dire che aspettiamo tutti con ansia il vostro live, perché io sono tra quelli che hanno apprezzato tantissimo il vostro disco, è veramente bello, appassionante. E speriamo di cuore di vedervi dal vivo al più presto. Grazie Erika. Troppo buona. Dobbiamo sopravvivere da qui prima. Sì, ce la farete, sì. Vi devo confessare che l'avevo invitata qui questa sera, però è impegnata con le prove, quindi non ha potuto essere presente, insomma. Troppo forte, troppo forte. Sei qui col cuore. Certo. Con la voce. Grazie. Comunque il 12 maggio siamo allo Scarpon Live vicino Mestre. Fantastico! Sarò in prima fila. Benissimo, bene. Ti passo a prendere, Erika. Grazie, Ago, sì, assolutamente. Va bene, ti salutiamo, ti ringraziamo della cortesia. Un bacione in bocca al lupo per il resto della trasmissione. Grazie, Erika. Ciao. E buone prove. Ecco, volevo aggiungere rispetto a quello che diceva Stefano, che per me, ma anche per gli altri, è stata una registrazione molto istintiva, perché avendo spogliato completamente i pezzi e lavorando sulla batteria e il basso come base, già la batteria aveva dato una sua impronta ai pezzi diversa da quella che avevo originariamente. e quindi non abbiamo più potuto suonare le cose che avevamo nella testa, ma abbiamo improvvisato in sala sostanzialmente. Quindi è una specie di improvvisazione, sì, come si faceva una volta praticamente. Sì, anche se in multipista, però c'è, sì, da fare questo pezzo, e veniva come veniva, è stato molto bello. E Nicola cosa ci ha messo? Nicola, vieni avanti un secondo. Dove sei, Nicola? È un attimo, perché lui sta, sai che deve... Cosa deve... ci hai messo, oltre a... Io posso dire che Nicola ha fatto, poi lui diceva, beh, ma... suo, naturalmente, ha fatto un po' da, come dire... E vigile urbano, ha spartito il traffico, ha diretto. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Perché ciao. Un'altra delle caratteristiche nostre è che siamo, come dice Michele, quattro belle testine. E bisogna continuamente mettere ordine sui pensieri che corrono, ognuno un po'. Va avanti per la propria strada, però giustamente ci vuole. Alla fine, uno, diciamo che lui, diciamo, sicuramente ha avuto, al di là dei meriti tecnici, certo, professionali, questo ruolo di, come dire, di mediatore e riequilibratore di motivatore. Motivatore. Vai Nicola, beh, intanto parlare. Diciamo la verità su quanto è durata la registrazione del disco. No, non dirlo. La vera verità. Dillo. 12 ore erano i pelle, quelle preventivate. Esatto, sono diventati 3 anni. Quanti? 3 anni, ma in realtà di 12 ore. Facciamo un'ora, fermi un mese, altre 2 ore, fermi 3 mesi. No, perché diciamo il primo step è stato abbastanza veloce, quello, diciamo, di svestire i pezzi e ascoltarli. Io dico sempre per sentire se i pezzi stanno in piedi da sole, no? Certo. Quindi, se hanno l'ossatura, e stasera secondo me lo sentiremo se sono veramente belli. Ok. Cos'è, una minaccia? Questo condizionale. Poi, sei così tremendo, Nicola. Poi, ci stimo un casino. Poi abbiamo, cioè io ho proposto a loro Danzi, Davide De Vito come batterista. Perché, che citiamo, un batterista straordinario, chiaramente. Che con me aveva già fatto diversi progetti, anche live e anche in studio. E quindi è stato un po' un... Io l'ho visto lavorare tante volte in studio con me, e secondo me gli sono piaciuti veramente i pezzi. Quindi li ha sentiti e sì, li ha fatti di getto. Ecco, noi 3 anni, lui 3 giorni. Vedi. La classe. Non è acqua. Può capitare, l'importante è che sia capitato a voi, cioè mi ha dato una mano. Perché da noi, cioè da me in studio, diciamo, c'è questa regola che i musicisti che entrano in studio non hanno mai sentito nulla di quello che è il materiale di lavoro. Ho capito. Proprio perché si crea una situazione di creatività, diciamo, iniziale, pura, che secondo me è fondamentale. A loro mi pare che sia piaciuto subito, e poi abbiamo cominciato a lavorare insieme per 2-3 anni, diciamo, per, sì, incollare sopra, per sperimentare. Sempre troppo poco, eh. E questa è stata un'esperienza subito. Bellissima anche per me, ve lo dico. Questo lo dice sinceramente. Lo vedo. Ecco. Poi sveleremo. Sì, abbiamo anche suonato, mi sembra, un po' insieme qualche anno prima, mi pare. 1883. Festeggiamo quel 150° anniversario. Sì, insieme all'Italia. Bene. Ok, benissimo. Scusa, dimmi. Vorrei solo citare gli altri, sì, componenti. Gli altri componenti, cioè, componenti di questo, questo progetto. Gruppo, di questo progetto. Ha suonato con noi, allora, Davide De Vito, la batteria. Poi Bebo Best ha suonato il sitar in Incandescenti Nuvole. Che è un pezzo molto interessante che poi spiegheremo che dopo. È molto importante, secondo me. Poi hanno collaborato con le voci, i vocalist, Cristiana Lirussi e Marco Gioia. Cristiana Lirussi è, posso dirlo? Ma di che? Dai, svelalo. Lo svelo. È coniugato con Nicola Albano. Perfetto, okay. Ah, allora la saluto anch'io, allora. Ci siamo conosciuti l'anno scorso, Nicola, vero? Esatto. Diciamo che lei è il capo della DAG. Ah, sì. Non conto niente. Allora saluto la moglie, non lo sapevo questo. Allora, vabbè, insomma, di solito è sempre così, no? A casa con... È sempre così. Sì, anche a casa mia. Non solo alla DAG. Anzi, saluto Sara, ciao. Ciao. Ok, benissimo. Allora adesso abbiamo scaldato l'ambiente, siete carichi, e facciamo qualcosa, dobbiamo scaldare vivo. Musicalmente parlando le cose. Abbiamo scelto un pezzo che io ho messo su per un mese consecutivo e sta andando ancora in onda come pezzo vostro di lancio. Ho scelto quello, a me piaceva particolarmente, è una ballata molto interessante secondo me. Che si chiama? Si intitola? Cerco te. Perfetto, live stasera 21 e 22 qui a Blu Radio Veneto. Come non l'hai mai sentito? bisogno di te, lo giuro. E non gioco più. Cerco solo te, davvero. Quante vite spese a dirmi in fondo è tutto qua. Ma questa volta giuro non mi basterà. E cerco te. Voglio solo te. Parlami di te. Sono qui per te. Forse mille mani non le lascerò mai più. So che tu mi ami, ma io non ti sento più. Dammi un paio d'ali e volerò insieme a te al di là del buio, buio. Che ti amo, sì, lo giuro. Sono sicuro, sì, lo giuro. Dammi un paio d'ali, volerò insieme a te al di là del buio, buio. Che ti amo, sì, lo giuro. Che sono sicuro, sì, lo giuro. Allontana questo buio. Eh sì, fino all'ultimo secondo Agostino giustamente entra. No, devo aspettare l'ultimo momento, perché è giusto che sia così la regola dei nostri live, è sentire fino all'ultima nota. È una bella ballata pop, io l'ho disegnata così noi della redazione. Entra immediatamente, ha un ritornello abbastanza semplice, quindi accattivante, ma è ben fatta, ben costruita. Visto che sei stato te che l'hai scritta, dimmi come l'idea, come ti è venuta. Allora, l'idea nasce dal desiderio di esprimere un po' un sentimento interiore, un po' una ricerca personale, spirituale, che ha trovato in questi accordi un po' che richiamano la tradizione anche americana. Sì, esatto, westcoastiana possiamo dire. Mm-hmm. Un modo, sì, westcoastiana proprio, un modo di alleggerire il contenuto e veicolare anche nelle parole che magari possono essere un po' meno banali, certo, su un supporto più veloce, più agile, più intuitivo. Esattamente, poi come sempre dico nelle band, quando le band vengono qua, il discorso della scaletta non è fatto a caso. Tu hai messo il pezzo, è stato messo il pezzo al quarto posto della scaletta perché aveva un significato. Assolutamente, decisamente. Sì, assolutamente sì. Diciamo che questo testo e anche testi che poi magari ne parleremo un attimo dopo, sono un po' un marchio del disco, che vuole un po' andare alla ricerca oltre di le cose che sentiamo ultimamente nel pop, cioè aggiungere un po' di contenuti per ritornare anche alla nostra tradizione italiana cantautorale, che nel pop si è andato un po' persa. Sì, insomma. Sì, esattamente. Più pop, meno cantautorato. Cioè, qualche cosa è andata perduta, giustamente, bisogna riprendere le cose che sono state fatte, esatto, nel passato e risvilupparle chiaramente nel presente. Io vi porto i saluti dalla provincia di Chieti, da Ortona. Bello, bel posto. Si chiama Elvira, vi sta ascoltando, vi fa i suoi più cordiali saluti. Io la saluti, saluti, grazie mille. Elvira, ciao Elvira, grazie, ciao. Elvira. Ciao. Grazie, anzi, tante per grazie. La precisione, grazie mille illusioni. Ciao Elvira, un bacio. Elvira è una realtà, ciao Elvira. Allora, cosa dovevo dire? Che questa è Blu Radio Veneto, questa ve lo ricorderò sempre, ovviamente. Insomma, questa è la vostra emittente preferita in questo preciso istante, perché la state ascoltando. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di conoscere maggiormente questo gruppo locale della zona di Padova, che si chiamano Spazi Immensi. Sono cinque simpatici amici che sono venuti a trovarci, più c'è il fonico, vabbè, facciamo sei, più abbiamo la Chiara, che dobbiamo ringraziare alle fotografie. E più questa sera c'è una bella compagnia con me, c'è la Ilenia che è venuta a farci visita e a ascoltare la musica degli Spazi Immensi. Ciao Ilenia. È il nostro Tom Bird fan. Se volete mandare qualche messaggio ai nostri amici, allora vi ricordo il 346 23 20 033 per chiedere quello che volete. Loro sono a vostra completa disposizione. Domande semplici, mi raccomando. Sì. Ho fatto una piccola dimenticanza, ma proprio piccola, sì, piccola. Vai, vai. Ha suonato anche Nicola Albano. Ah, vedi, Piccola dimenticanza. Leggera dimenticanza. Pianoforte, tastiere, loop. Fondamentale. Grazie anche Nicola. Questo. Solo che ancora non si ricorda le parti delle canzoni. Sì. Ha suonato del disco, non lo porteremo nel live. Invece portiamo in live Alessandro. Parlare con Alessandro, che adesso si avvicina al microfono. Sì, ce la fai, nonostante tutto ce la fai. E qui hai portato un set ridotto di batteria, chiaramente. Oh yes. Percussioni. Percussioni, esattamente percussioni. Dal vivo che set porterai di batteria? Ma dal vivo porto il set normalissimo, completo. Il set rock, diciamo, classica cassa, 4, 5, 8 tom a seconda delle situazioni. 94 timpani, no, in realtà molto semplice, due tom, timpano, piatti che danno sempre tanto colore, esatto, alle canzoni, e, perché comunque ascoltando tutto il CD c'è una sonorità pop rock dall'inizio alla fine, certo, quindi sono d'accordo va suonata e poi, con una batteria bella piena. Non so se sei d'accordo, io ho notato nel CD, che non ha interpretato te, ma interpreti dal vivo chiaramente, ci sono molti stop and go, è una caratteristica. Sì, ma infatti quando Michele mi ha contattato per ascoltare innanzitutto questo progetto, questo CD, sono rimasto veramente stupito, innanzitutto per il batterista che ci suonava, che è molto bravo, questo era una bellissima carta di presentazione, ma soprattutto per l'arrangiamento dei pezzi. La prima sera che sono andato a prove con loro, che era tra l'altro il mio compleanno, tra parentesi, quale regalo migliore per il tuo compleanno, per un 21enne, ma è giovanissimo lui, si sa. Eccolo là. Quello che ho detto, arrangiamenti stupendi, soprattutto in alcune canzoni tipo Spazi Immensi, esattamente prima, abbiamo citato prima, ma che non è la sola, e quindi mi ha preso immediatamente, io che vengo dal rock, dal prog, stile area, esattamente, banco, quindi conosci molto bene gli area, abbiamo già parlato, esattamente, e sono stato preso immediatamente da questo progetto e ho voluto entrare a farne parte immediatamente. Ha scritto un commento in Facebook che pensavo fosse copiato da qualche parte. Una cosa lusinghierissima. Sì. Non so se me lo ricordo a memoria, era stile, siccome lui mi ha detto no, ma guarda, è un CD, ma non mi offendere poi con le accuse. Invece gli ho detto guarda amiche, che questo CD qua si chiamerà anche Mille Illusioni, ma è una bellissima realtà. Appunto, l'illusione sia solo un nome, solo un titolo, però non è un'illusione, una realtà vera e propria, musicalmente parlando. Ti stimiamo. Ok. Agostino, allora. Io, ditemi voi se volete che facciamo ascoltare. Facciamo sentire, adesso sono le 21:32. Vuoi che facciamo sentire un pezzo da disco, così facciamo riposare da un disco? Secondo? Sì, e poi passiamo con un altro live. Cosa ci proponete, cosa ci avete scelto? Questo pezzo è il secondo del CD e si intitola Dammi un attimo. Perfetto. Ne parliamo dopo? Certamente. Ne parliamo dopo. Ok. Penso che sia finita la mia storia con te. Poi mi guardo intorno e ti vedo che serena, raccogli ciò che resta di noi. Tu dammi un attimo, credi io mi inventerò un'altra vita senza di te. Se è vero che ogni sbaglio si paga, allora io sto sbagliando tutto con te. Ma corre troppo in fretta la mia vita, non riesco a fermarmi per capirne il perché. Ma tu dammi un attimo ed io mi inventerò un'altra vita senza di te. Ma tu dammi un attimo ed io ce la farò a vivere anche senza di te. Ma se basta un attimo per farmi dire che da troppo tempo ormai ho vissuto senza di te, riconquistami, usa lacrime e bugie, perché qui da me forza non ce n'è più. Pensare quante volte ho creduto di vedere nei tuoi occhi che amore più non c'è, e invece quello che io vedevo era il riflesso di ciò che avevo dentro di me. Ma tu dammi un attimo ed io mi inventerò un'altra vita senza di te. Ma poi basta un attimo per sentirmi misero, perché il nostro vivere non è più l'unisono, è tutto l'amore che volevo vivere. Ora capisco che non è più con te. Ma se basta un attimo per farmi dire che da troppo tempo ormai ho vissuto senza di te, riconquistami, usa lacrime, forza non ce n'è più. No, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. C'è un messaggio per voi, fanciulli. Sì. Sì, allora dicono, state andando alla grande. Un saluto da quattro cipolline. D'accordo. Ciao, quattro cipolline. Ciao, quattro cipolline. Giochiamo in casa qua. Il responsabile è cipollotto. Ma non è finita. Non sono io il responsabile. Il responsabile è la loro madre. Ah, giusto. È un correo. Mi sembra almeno indispensabile. Mi sembra giusto correggere, dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma ce n'è un altro che dice: sono la fans che vi segue da sempre, dai garage alle taverne ai locali, e mi siete sempre tanto piaciuti, continuate così, la musica è vita. Ilaria. Grande Ilaria, grazie. Mi ricordo quando ti addormentavi sul divano ascoltando le prove. Io ne approfitto per ricordarlo sempre, il nostro numero di cellulare per i vostri messaggi, per gli spazi immensi, scusate, 346 23 20 033, se volete chiedere qualcosa, mandare messaggi, eccetera eccetera. Se invece ci volete raggiungere qui in studio, vi ricordo lo 049 875 6423. Parliamo un momento del pezzo, della questa chitarra distorta che alla fine viene fuori. Pezzo abbastanza accattivante, però alla fine cambia ritmo. Come mai, visto che la chitarra distorta è la tua? Ma diciamo che io sono un po' un disadattato in questo gruppo. In che senso? Non sono in questo gruppo, Carlo. Nel senso che non sono cresciuto a pane Beatles, ma sono cresciuto a pane hard rock negli anni 80, dall'84, 83. Quindi tutti gli eredi di Jimi Hendrix sono entrati nel mio repertorio. Poi, vista l'età, ho pensato di scendere a Miti Consigli e quindi ho capito. Ma quando è che li hai fatti uscire dal tuo repertorio? Sì, esatto. Quando tu avevi qualche anno in meno di adesso. Cioè, praticamente l'amore per Hendrix, bene o male, mascherato o non mascherato, viene sempre fuori. Sì, questo blues che è diventato un rock, qualcosa di completamente nuovo che non è mai esistito prima, ha sconvolto un po', penso, tutti i chitarristi del mio periodo, della mia generazione, ma anche di quella precedente. E poi sono venuti i Van Halen, Steve Lukather e tutti gli altri che hanno solo perseguito la strada che qualcuno aveva fatto dal zero. Sì, dobbiamo sottolineare una cosa, dire un stanco di volte, che Hendrix era Hendrix, tutti gli altri sono bravi, sì, però non è, a livello di Hendrix c'era solo Hendrix, fine. E basta. Fine. E non era solo un bravo chitarrista, era un grande compositore. È vero, sì. Verissimo questo. Ha trasformato certe cose musicali, assolutamente. Vabbè, ma questo è una cosa positiva, perché molti l'hanno seguito più o meno forma positiva, chiaramente, sempre in forma positiva, perché il messaggio che ha dato ha sviluppato tanti concetti musicali. Assolutamente. Tra l'altro, se ci sono cover di Jimi Hendrix fatte da gruppi completamente diversi. Certo, io ricordo uno di Corso, non so se vi ricordate, che facevano assolutamente diverso da Jimi Hendrix. Poi hanno fatto un pezzo di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix è universale musicalmente parlando, c'è poco da dire. Oh, qui state andando alla grande, eh? Anche Bologna vi ascolta, bravi, belli e ora anche famosi. Bravo. Ciao, che Bologna. Bologna. Grazie. Un altro, ce n'è un altro, qui fiocano. Allora, vi vogliamo vedere dal vivo, quando e dove, un amante di buona musica. Antonio l'ha citato prima, il prossimo. Allora, per il momento noi che siamo così, un po' dei parvenu, diciamo. Cosa vuol dire parvenu? Sì, tu adesso devi. Quelle cose con i gioielli, le collane, sai, gli anelli. Mi sembra ci stesse bene. Comunque, allora, il 12 maggio a Scarpon Live, un locale, una comedy club che si trova tra Mestre e Mogliano Veneto. E ci stiamo organizzando per fare qualcosa, uno showcase live dalle parti di Limena, probabilmente. Forse, insomma, ci sono diverse cose che bollono in pentola, ma quando ci saranno delle date più precise ve le faremo presenti attraverso il nostro sito, che è spazimensi.com. Sì, la pagina ci trovate Facebook. Anche su Facebook e anche su MySpace. Cose da giovani. Esatto. Sì. Tutte quelle robe strane. Io sto dicendo, no? Perché ho un foglio scritto davanti, non so cosa sia sta roba. Proprio a te è toccato dire questa cosa. Esatto, l'antetecno, troglodytus, come mi chiamano i miei simpatici. Homus technologicus. Okay. Mi stanno ascoltando anche mentre lavorano, c'è un messaggio, un saluto da Mauro che sta lavorando in questo istante, però sta ascoltando la radio, quindi sta ascoltando anche voi. Ciao Mauro, è un lavorare un po' forte come affermazione, però no? Sei il Mauro che dico che io. Pensiamo noi. No, non no, è quello. No, scusa Mauro, sei fortissimo. Muovi il PIL, staci vicino. Va bene. Ah, volevo dire che stiamo organizzando in realtà una serie di concerti, sì, in collaborazione con una persona che conosciamo, con Amnesty International. Vogliamo portare in giro il nostro spettacolo in teatri locali, quindi sicuramente entro aprile, se non inizio maggio, cominceremo a portare fuori i CD e le informazioni gireranno poi in rete comunque. Bene, certamente, una cosa molto positiva questa. Ok, 21 e 42, sì, Agostino, sì, devono suonare. Bisogna suonare qua, bisogna suonare, ragazzi. Sì, cioè, per forza di cose. Il nostro Nicola, il nostro tecnico, il nostro fonico, deve contribuire, sì, chiaramente. Sì. E il pezzo che andiamo a fare adesso si intitola Faro. Quello che abbiamo appena sentito era Dammi un attimo e parlava di una storia in grande crisi, una storia d'amore in grande crisi. Una paralisi che coglie a volte le persone che non riescono ad ammettere di avere un problema e quindi cercare di risolverlo. Invece il Faro parla di una storia che è finita, più o meno. Cose allegrissime. Una storia d'amore finita. E il testo racconta di come lui, nonostante tragicamente stia vivendo questo momento, cerca di consolare lei, dando una specie di speranza per una vita migliore. Tutto rigorosamente dal vivo, non vi preoccupate. Questa è il live, questa è quella durante. Non piangere, anche se sarà più difficile. Ed io che vorrei morire, chi vorrei morire. Dico a te di non piangere. Vedo reso tutto impossibile, la tua esistenza era al limite, stando immobile io stavo distruggendo tutto, la scelta fatta era l'unica. Ma vivo il buio della mia anima, perché al buio vive un'ipocrita. Fingo di poter gioire, di poter soffrire, fingo di poter continuare a vivere anche senza te. Spegniti, farò nella notte, io non posso più volare. Spegniti, farò nella notte, io non voglio più volare. Forse è colpa dell'umidità, ma va meglio adesso amore non piangere. Hai fatto la tua scelta per vivere. Spero solo che l'amore che tu gli stai dando non sia lo stesso amore che un tempo ho dato a te. Spegniti, farò nella notte. Non posso più volare. Spegniti, farò nella notte. Io non voglio più volare. Spegniti, farò nella notte. Io non posso più volare. Spegniti, farò nella notte. Io non posso più volare. Sempre fino all'ultimo centesimo o l'ultimo momento, perché così, bravo, bravo, complimenti, un bel pezzo, sofferto, musicalmente sofferto, l'hai interpretato con un certo pathos, con un certo trasporto, sei d'accordo? Sei un po' stanco? Sì. Vuol dire, ma vuol dire, se sei stanco vuol dire che hai speso tutto in questo pezzo, vuol dire che l'hai interpretato, sei proprio, sei dentro il pezzo praticamente. Sì, grazie. Io l'ho sentito proprio così. Proprio dentro questa storia. Quando l'hai scritta. L'ho sentita così e si vede, cioè, anche musicalmente i tuoi colleghi ti hanno seguito. Sì. Però la voce ha dato l'input a tutto quanto stavolta, oltre alla batteria sua, ha dato l'input a tutti gli altri strumenti. Grazie. E il nostro Carlo l'ha colorata leggermente stavolta, non è andato oltre, solo quei momenti, chiaramente, che servono decisamente. Qui SMS... grafica. Un saluto da Nicole, che bei momenti che state vivendo, complimenti e avanti a tutta potenza. Grazie Nicole. Grazie. Ciao Nicole. State andando molto bene, Lorenzo. grazie. Ciao Lorenzo. Chi è Lorenzo? quello piccolo. Insomma, si può sentire Seta sì o no? Ciao Giancarlo. Ecco, quello mi ha chiesto già, vi ha dato già una input. Giancarlo. Zio Stefano, sei un figo. Francesco Lucia. Non fate così. Questo che è pagata. Non devi dire chi è. Fazzoletto, per favore. Vuoi sapere chi è? No, no, no, non dire zio Stefano, che poi si capisce che è tutto preparato. E poi ancora, qui è di parte, proprio di parte. Ciao Papi, sembrate davvero famosi. Tommaso. Tommy, ti amo, Tommy. Sembrate davvero famosi, vorrei sottolineare. Tommaso e Lorenzo sono i miei idoli. Ve lo ricordo sempre il nostro numero di cellulare, allora 346 23 20 033 per i vostri sms. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. La voce, ricordo, è sempre quella di Agostino Spalore, che con Maurizio Calzavara vi sta ascoltando, vi stiamo proponendo questi cinque amici: Stefano Marzari, Carlo Tonietto, Antonio Cipolla, Michele Vallerotonda, Alessandro Colinne, che sono gli spazi immensi praticamente, insomma. E più c'è Nicola Albano, che dirige tutto quanto. Ricordiamo che i quattro nomi prima fatti sono tutti e quattro coautori. Certo, questo è importante. Questo è un disco da gruppo in tutti i sensi, praticamente. Sì. L'idea di fare un disco, avevamo già parlato prima, però allarghiamola leggermente. L'idea di fare un disco da gruppo, cioè ognuno scrive i pezzi, ma c'è un continuo legame fra di voi. Non c'è un autore solo. No, questo è uno, quando prima dicevo siamo quattro belle testine, anche da questo punto di vista, diciamo che nel corso dell'opera sono venute altre idee, altri si sono voluti aggregare al piacere di mettere in condivisione la propria creatività. Sì. L'idea è sempre stata quella di... come dire, partendo da uno spunto personale, metterlo assieme, metterlo sul tavolo, lasciare che gli altri, ciascuno dicesse la propria, ci mettesse la sua, e per cui alla fine i pezzi, che partono tutti come autori, diciamo, ognuno di noi, certo, è autore come primo impulso di ciascuno per alcuni pezzi, poi alla fine... Mi sono un po' impappinato. No, hai capito, però, perché ci abbiamo messo 3 anni a registrare il disco. Alla fine li abbiamo registrati tutti, suonando tutti le cose degli altri. Esatto, perfetto. A caso, più che altro. Comunque, una cosa, posso aggiungere una cosina? Vai, vai. Il fatto che ci conosciamo, diciamo che la colla, sì, okay, è questa. Ci conosciamo da tantissimo tempo. Quindi ci siamo mandati a... come si dice? Non si dicono le parolacce. Ci siamo mandati a quel paese molte volte. Okay. Però ci siamo poi ripresi. E questo è un tira e molla, forse, che fa bene a questo rapporto. Quindi è stata una discussione democratica, possiamo dire questo. Decisamente. Sì, troppo democratica. Sì, troppo democratica. No, infatti, per fortuna, che è arrivato Nicola, che ha suggellato... la democrazia, ha messo una bella dittatura. Purtroppo, sai, una cosa, posso dire una cosa? Sì. Ieri sera parlavo con una band, loro mi hanno detto la stessa cosa, cioè praticamente erano amici, però ci voleva uno che l'amicizia sì, la mettesse in pratica, però fosse al di sopra delle parti. Esatto. Quindi non dico rompesse l'amicizia, però hai capito, questo voglio intendere. Ma e così è stato Nicola. Sai come è partito lui? Dimmi. Lui ci ha fatto capire che parlare troppo sulle cose non è positivo. Infatti lui cominciava dicendo una cosa, il contrario della cosa, riprendeva la prima, la cambiava continuamente. Ci ha fatto capire che, siccome era il nostro modo di fare, non era quello giusto. Siamo arrivati un po' alla volta a decidere passo passo tutto quanto. Michele, mi fai una cortesia? Ti alzi in piedi un attimo? Sì. Allora, siccome stai in piedi, siccome avete parlato di democrazia voi rimanenti del gruppo, c'è una domanda: ma il cantante è bello come dicono? Allora, per ti stanno guardando sulla webcam, quindi ti abbiamo inquadrato adesso. È un messaggio. Adesso scrivete gli sms per dire se è vero o no. Sì. Comunque la risposta esatta è sì. Sì, noi per fortuna ci siamo abituati, perché abbagliati da tanta bellezza non sarebbe possibile sopravvivere. Ecco. L'abbiamo utilizzato come frontman. Noi come radio arriviamo anche oltre oceano, arriviamo anche in Irlanda, a Dublino, e dicono: spero di vedervi live in Dublino presto. The Flying Irishman. Irishman, Flying Irishman. Grande Irishman. Grande Irishman. Forte il tuo whisky. La vostra sede di Dublino in che indirizzo è? Sì. Non lo so. Beh, abbiamo una sede anche a Dublino, non lì. Allora andremo a suonare lì. Dopo lo Scarpon Live. Dublino City. E un ultimo è arrivato adesso. Beh ragazzi, che dire, siete proprio forti e continuate a stupirmi, non solo al lavoro, mi fate sognare. Stefano. Forte. Forte. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Notiamo con piacere che avete un sacco di seguito qui, eh. Ma sì, poi un po' la volta ci dirà chi ha scritto, che non riusciamo a capirlo così, però. Sono amici. Grazie. Accumulati negli anni, sai. Grazie. Certo, certo, sì. Ci vuole che... E noi siamo contenti che avete questo seguito, vuol dire che, insomma, anche noi siamo ascoltati, ovviamente, insomma, un po' di presunzione non fa mai male. Siamo su Blu Radio Veneto. Bravissimo. Bravo. Grazie. Dillo tu. Blu Radio Veneto, www.bluradioveneto.it. Poi e mo quindi spazi immensi e pubblicità. No. No, non c'è la pubblicità. No, non ci stava bene. Gli ospiti fanno da lanciare la pubblicità di solito. 88-70. C'è la frequenza. 88-700. Devi dire che ore sono adesso, Michele. Sono le 21:54 e 28. Siamo live in Blu Radio Veneto. Il giorno? Questa qui è una domandona. Mamma mia, 24. Ti stimo. 24. Ti stimo. 24. Ecco, adesso capiamo a cosa serve la regia. Dire la data. Eccole qua. Bene, benissimo. Cosa facciamo adesso? Dunque, adesso sono le 21:54. Suoniamo un disco. Facciamo un pezzo da disco e poi suoniamo. Che pezzo avete scelto da disco? Scusa, direi di sentire quella con il sitar. Che è che è molto interessante, poi ne parliamo. Che si chiama Incandescenti Nuvole. Allora. Incandescenti Nuvole, che è la numero 15. Ok. 15, okay. La numero 15 del disco. Soldi per le vie a New Orleans, meglio far la guerra nell'Iraq. ci brucia e ci fa male la scomoda verità. Inquinamento sale di noi che resterà, polvere nel vento, incandescenti nuvole, incandescenti. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre la fascia oraria Blu Radio Sera con Agostino e con Maurizio di ogni giovedì, praticamente siamo sempre insieme, siamo una coppia mai fissa, insomma, mi hanno tolto da fare la musica, solamente facciamo sempre esclusivamente live. E sono interista, ve lo dico perché dovevo dirlo. Questa è una grossa mancanza. Questa è una grossa mancanza. Perché dicevo, questo non l'hai mai detto. Va bene, allora siamo con gli spazi immensi. Questa è Blu Radio Veneto e sono le 22 quasi in questo preciso istante. Mancano pochi secondi. Sì, esattamente, 22. Esatto. Visto? È già passato un'ora con voi. Vedi. Il tempo vola quando ci si diverte. Esattamente. 30 secondi per parlare di questo pezzo, perché abbiamo poco tempo e voglio sentire live. Chiaramente l'uso del sitar, l'idea dell'uso del sitar è molto interessante. Dopo molti anni ho sentito una band italiana che usa il sitar. Allora, il sitar è stato una conseguenza del primo titolo di questa canzone. Il primo titolo di questa canzone era Bhopal. Ah, ho capito. Ok. Sì. Localizzazione India. Esatto. Okay. Quindi siccome questa canzone voleva affrontare, diciamo così, il tema del rapporto dell'essere umano con l'ambiente. Sì. Quindi ci dà il disastro che è successo. Il disastro che è successo nel 1984, che certo, ha provocato migliaia di vittime. È stato un disastro causato dall'uomo, perché dall'incuria, dall'abbandono di una fabbrica di prodotti chimici. Esatto. Che era una fabbrica americana che era stata, diciamo così, piantata, smessa, abbandonata. Piantata in India, dove esatto, il lavoro costa meno, eccetera, eccetera. E poi però abbandonata, esatto, perché essendo stata abbandonata, dopo un po' è successo il disastro. Allora, questo disastro causato dall'uomo è un po' diverso da quello che succede per disastri naturali, tsunami, terremoti, ok? Quindi appunto alla fine il coro dice Bhopal non è Pompei, perché si mettono si confrontano questi due eventi. E nella canzone si parla appunto del rapporto con l'ambiente. Parlando di Bhopal, è stato come dire una logica conseguenza arrivare a uno strumento che colorasse di indiano questa canzone. E avete scelto il sitar, strumento indiano per eccellenza. E poi in qualche modo che avevamo conosciuto ascoltando i Beatles. Chiaramente, esattamente. George Harrison. Diciamo esattamente, è stato importato in Occidente da George Harrison. Esatto, dai George Harrison, dai Beatles, e poi si è allargato, poi c'è stato Ravi Shankar che è venuto in tournée in Europa. Però è partito assolutamente dai Beatles. E poi Vandelli, come dico. Poi Vandelli con l'Equipe che ha utilizzato il sitar, è stato il primo gruppo italiano a utilizzare il sitar. Benissimo, adesso... Quindi noi siamo i secondi? Siete i secondi, primo l'Equipe, siete allora, buoni secondi, dai. Buoni secondi. Molto buoni. Molto sitar, buoni. Sitar che non abbiamo suonato noi, ma ha suonato Bebo Best, un jazzista, bossanovista, batterista, polistrumentista che è venuto a collaborare con noi. Ha fatto sta improvvisato, sì, delizioso cameo. Un cameo, esatto. Agostino, sono pronti per il live adesso? Cosa siete pronti per il live? Non ci credo, siete già pronti? Sì, sono già pronti. Cosa ci fate ascoltare adesso? Via. Via? Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Il mareggiato, cammino per la città, fermo senza fiato, è questa la realtà. L'aria è diventata irrespirabile, ma continuiamo ad abusarne, che ce n'è. Hanno detto che il petrolio un giorno finirà, e il motore del futuro a scoppio non sarà. Ma oramai siamo affamati di energia, e del tempo ne rimane tanto da buttarne via, via. Schiavi del computer, sempre più allucinati in fronte alla TV. Ci siamo abituati ad ogni ben di Dio, e non possiamo rinunciare a niente se non a Dio. Bombe d'Oriente, echi di morte, petrolio e poi chissà. E dall'Africa le guerre e i massacri che annoiano i TG, yeah. C'è chi piange figli e casa non ha più, e vorrebbe solamente fuggire e andarsene via da laggiù. Via, via. Via, al momento di lasciare, niente si potrà portare oltre al giusto. Lascia stare un momento. Prima o poi dovrà arrivare. Via, via, via, via. Un pezzo con testo molto forte, decisamente forte, non mica un pezzo con testo leggero, assolutamente no, vero Agostino? Ah, pezzo infatti. Decisamente tagliente, cioè dà un hai visto un quadro che aggressivo che era? Sì, molto chiedo. Aggressivo, ha cantato in modo aggressivo, decisamente, però il testo doveva, voleva un po' un modo di cantare aggressivo, sì. Doveva essere così. Però un po' arrabbiati. Però Michele, sarai anche bello, ma quando è che giochiamo a Dungeons and Dragons? Già, Federico. Ecco, Dungeons and Dragons è una passione che alcuni avevano da giovani. Sai, le avventure molto giovane, sì, sì, infatti. Avete pagato l'affitto al scantinato a Maria e Tullio? Perché dice dal nostro scantinato a Blu Radio Veneto quanta strada, ragazzi. Complimenti da Maria e Tullio. Grande Maria e Tullio, detto Oddone. Oddone. Che ci accetta così come siamo. Esatto. Papà, sei un grande, Tobia e Antonio. Un grandissimo saluto a Tobia e Antonio. Ok, benissimo. Posso dire una cosa su questo pezzo? Un andamento, se mi è consentito il termine, molto morriconiano all'inizio. Un po' alla Morricone. qualche pezzo, non dico il western di Morricone, ma il modo di suonare di Morricone in alcuni momenti. Dopo chiaramente avete preso mano voi, assolutamente. Purtroppo. Però questo, perché purtroppo scusa, no. Morricone. No, Morricone, cioè a me questo incedere era molto Morricone all'inizio, poi no. Però all'inizio me questo gioco di chitarra mi ricordava questo. Grazie Maurizio. Grazie. Ma Morricone, quel Morricone. Beh, diciamo che non è come dire, è probabile, molto probabile che si sentano molte influenze in questa registrazione, in questo disco, perché è stato così ma è positivo secondo me. Abbiamo assorbito come delle spugne musica per anni e con questo disco abbiamo rilasciato. Certo, però avete assorbito, però i pezzi sono tutti assolutamente vostri, questo è importante. Sì, certo. Assolutamente al 100%. 22.08, Agostino, cosa facciamo? Facciamo subito un live. Facciamo un live, dai, un altro live. Dobbiamo suonare, ragazzi, lo so, ma voi adesso ormai avete preso un momento delle cose e vi vedo ben messi, ben distribuiti, quindi c'è feeling. Okay. Siete pronti? Cosa ci fate ascoltare? Vi facciamo ascoltare Inestricabilmente. Okay. Perfetto, ok. Guardato, senti mi ha sfiorato, guarda se è seduta proprio accanto a me. Che pazzo, non mi sposto, non sfugo a questa danza. Vicini e poi lontani, sicuri forse no. Da quando la conosco, quel che è stato non è più. Cerco di non farlo e più io penso a lei. Ora stringo mani e bacio delle labbra. Chiudo piano gli occhi e mi sembrano le sue. Troppe sono le cose che vorrei capire. Provo e ci riprovo e poi rinuncio, perché quel lieve suo profumo che mi rimane dentro cancella i miei pensieri e mi attira a lei inestricabilmente. Vago come bocce di un biliardo senza sponde, disegno traiettorie senza senso, chi lo sa. Quale pazza mano, quale pazzo giocatore mi spinge senza meta in questa falsa realtà. Troppe sono le cose che mi piacerebbe dire, ci affollano e si spingono e sto zitto perché perdo nel suo sguardo che annoda i miei pensieri, attorno a un sentimento che mi stringe a lei inestricabilmente. Ok, l'ho sentita come una ballada un po' oscura, secondo me. Tu l'hai cantata con molta forza, ancora aggredendo anche il pezzo. Sempre musicalmente parlando. No, perché no? No, assolutamente no. È una cosa positiva, no? L'ho data un po' oscura, una ballada oscura stavolta. Non così chiara come le altre, volutamente oscura. Io l'ho trovata molto interessante. Chi l'ha scritta? Hai scritto te? L'ho scritta io. Bene. Sì. Ecco, c'è perché un'oscurità in tutti noi e bisogna... Soprattutto in te, Antonio. Sì. No, ma è una cosa positiva. Le famose Mard Ballad di Nick Cave, tanto per citare un nome, sono ballad oscure, tradizionali della tradizione inglese, del folk inglese. Però cosa vuol dire? L'oscurità in certi pezzi possono diventare anche decadenti, non c'è niente di male, anzi è una cosa positiva. Certo. Ok. Non abbiamo mai detto dove vi si può trovare praticamente il vostro sito, dove si può trovare il disco? Non, allora, sei, non sei stato attento, perché no, il sito Agostino, l'avevo detto. Ha ragione Agostino, ha ragione. Citiamo l'etichetta al sito. L'etichetta è Daigo Music, è fondamentale per noi, è una ragione di vita. Il nostro sito è www.spazioimmensi.com, lì ci sono le informazioni, ci sono i pezzi caricati che si possono ascoltare, il disco lo si trova in Daigo e si clicca sul sito della Daigo, si clicca sul sito e poi si prenota il disco, oppure se va in Daigo ci si saluta e si prende un disco. Ma voi siete sempre lì? Noi siamo sempre lì. Bene, bene. E www.daigomusic.it. Nicola sarà anche stanco di vedere che Nicola, siete sempre lì. Ha una grande pazienza. Ma la cosa è reciproca. Benissimo. Ok. Mettiamo 1000. Sì, avevate deciso di far sentire un pezzo da disco. Che pezzo avevate deciso di far sentire? Allora, in realtà noi vorremmo farne sentire altri due. Sì, vediamo. Intanto facciamo sentire uno, dai. Se ci fosse il tempo, allora facciamo sentire la traccia, quella che dà il titolo al CD, che è Mille Illusioni. Perfetto, ok. Che è la traccia numero 10. Numero 10. Ok. Ago. Sto amaro in bocca, non sono più il bimbo che ha mille sogni in tasca. Un senso di fraternità, questo che mi manca, l'ingenua semplicità di chi ti ama e basta. Superiorità, cerco un fuoco inestinguibile che mi scaldi anche al di là, al di là, al di là, al di là. We'll be right back. Blu-ra, Blu-radio Sera. Blu-radio Sera. Eccoci qua, siamo sempre qua, sono le 22.18, caro Agostino. Il tempo sta andando via velocemente. Il tempo va, passano le ore. Esatto, è un'altra cosa però. Papi, sei figo. Grazie amore. Qua siamo un sacco di papi. Ma sono scusa papi qua, chi sei? Via. Sicuramente non è per me. Sì, Ale, sei tu. L'anzianotto del gruppo. Anche se le abbiamo ascoltate tante volte, queste canzoni sono ogni volta più belle. Anna, Luisa, Giacomo, Federico, Ilaria. Ah, questo sono io, questo papi sono io. Perfetto, perfetto. No, sono due messaggi diversi. Ah, ok. Però io. Un minuto per parlare di questo pezzo, Carlo? Sì. Allora, questo pezzo è nato quando mi sono comprato la chitarra acustica. La prima cosa che è venuta fuori è questo pezzo. Poi, non è per niente acustico, ha deciso di esatto, elettrico. Poi sentendo il ritornello abbiamo capito che aveva bisogno di una potenza, di una portanza diversa. E quindi è diventato, è rimasto una citazione acustica in un refrain all'interno. E parlando del ritornello, mentre il pezzo andava c'era una discussione benevola in corso, era un singolo, adesso i singoli non si usano più, d'accordo, però era un bel pezzo che è accattivante, un singolo potenziale, un pezzo che fa muovere. Sì, ci immaginiamo di poterlo suonare sulla spiaggia. Fra qualche mese allora andrebbe bene. Allora abbiamo deciso adesso, Agostino, di far sentire un pezzo da disco, sono le 22.19, per poi permettere alla band di salutare i nostri ascoltatori live, chiaramente, come si conviene alla nostra trasmissione. Cosa ci fate? Allora adesso ascoltiamo È così che mi vuoi. Perfetto. Ne parliamo dopo? Ne certo. Parliamo dopo. Mm-hmm. Ok. A questo che vuoi è solo un passaggio e poi dietro la curva tutto alle spalle è solo questo tra noi. Non chiedi, mi prendi e che fai? Mi butti in un angolo e poi si allungo una mano. Sei fredda, lo sai. E fianchi morbidi hai, e con quegli occhi mi uccidi ogni volta, che puttana che sei. Mi volti le spalle, cammini lontano, ti vedo ancheggiare, io che ti farei se allungo una mano. Schiavo poi muore, lo sai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E il tempo vola inesorabile, 22:24, c'è già Alberto Prisco che poi succederà a questa trasmissione con la sua classifica di musica rock, appunto della stessa musica rock che fino alle 24 lui ci propone sempre le cose nuove, se avete modo di ascoltarlo, propone sempre quelle novità, soprattutto dall'America, che sono veramente pazzesche, sono bellissime. Salutiamo anche il nostro direttore artistico che ha praticamente organizzato tutti i live. Allora, saluti. Buonasera. Buonasera direttore. Buonasera direttore. Buonasera direttore. Allora, forte, si sono intrecciati i diti. Forte il tipo con i capelli lunghi. Sì, è Jimmy Hendrix. Ragione, hanno ragione. Da giovane. Poi dice, I heard you rock stars in Italy, Kate. Wow, Kate, wow, Kate Bush. Da dove? Kate, I love you, Kate. Da dove? You know that. Da we dove? Love you, Kate. Da dove ci I sta think ascoltando? She's lei ti ha scritto da Baltimora. Wow, wow. United States. Maryland. Maryland. Avete States. Spopolato. Oltre oceano. Questo ci fa molto piacere. E non siamo marinai. Sempre parenti comunque. Anche in America comunque. Bravi e emozionante sentirvi. Buon divertimento. Non si è firmato o firmata, non sappiamo. Insomma, grazie. Grazie mille allo stesso. Ma è merito di Maurizio e Agostino che ci ha messo a nostro agio. Grazie. Non grazie. Ti ho pagato. Grazie. No. 30 grazie. Secondi, 30 secondi, 30 secondi per dire il pezzo. Yeah. Il pezzo che hai scritto, cioè che hai dato una mano a scrivere. No, sì, e niente, una canzone che vuole essere un po' torbida, si parla di difficili rapporti tra i sessi, e a dispetto di certe, mi guardano fisso, e le donne hanno il potere. Ma dai! Questa era la e sintesi. Loro ci uccidono con gli occhi. Anche musicalmente una donna, la moglie di Nicola, ha fatto un bellissimo intervento. Un intervento meraviglioso Cristiana. Della Cristiana. E mitica. Ha dato un tocco veramente molto particolare al pezzo. Era una cosa... si cercava una coralità nel ritornello. Lei ha fatto questi ricami un po' come una sirena che richiama dal mare. Ci sta alla grande, veramente. Benissimo, decisamente proprio un ottimo pezzo. Ok. Noi vi ringraziamo. Grazie di aver partecipato questa voi. Sera, di essere venuti. Vi aspettiamo per il secondo disco. Scusa, sono il solito maleducato. 4 anni. Comunque ci siamo molto divertiti. Ti ringrazio. Sì, molto grazie a voi. Vi aspettiamo per il secondo disco, se avete voglia di tornarci. Grazie. Ma sì, con grazie. Il Play, perché uscirà tra 4-5 anni, probabilmente. Ma uscirà. I nostri tempi uscirà. Uscirà. Allora, un grazie a Stefano Marzari, a Carlo Tonietto, Antonio Cipolla, Michele Vallerotonda, Alessandro Arcolin, che sono gli spazi immensi. E ringraziamo la Daigo Music con Nicola Albano, che è il vostro factotum. Direttore artistico e tutto quanto. Maurizio, ciao. Ci grazie sentiamo. Agostino, ci sentiamo la prossima settimana. Io vi do un appuntamento molto importante per quanto mi riguarda. Lunedì prossimo c'è un big della musica house americana e anche gospel. Ha incantato 4.000 persone l'8 dicembre. Si chiama CC Rogers e Blu Radio Veneto avrà l'onore di averlo qui in studio live. Ci divertiremo veramente, ci emozioneremo senz'altro. Ilenia lo sa perché gli ha fatto da corista, quindi lei sa cosa andremo ad ascoltare. Ci salutiamo allora, spazi immensi. Ringraziamo anche la Chiara che con le foto. Grazie, cara. E Maurizio. Sì, salutiamo come sempre, come è la nostra tradizione, con un bel pezzo live, che è anche il singolo potenziale, possiamo chiamarlo così. Pezzo trainante dell'album. Ok, ciao ragazzi. Sai che c'è. Ok, buonanotte a tutti, cioè buonasera. Ciao. Sai che c'è? Non mi incanterai più senza te. Non è poi così male. Sai che c'è? Non mi incanterai più. Sto con te, sorvolando sulle tue bugie. Lascia stare, non parlare, non mi puoi convincere che è normale far soffrire chi che la vita è tutta qua. Voglio credere che da questa prigione che tu chiami amore io nascerò. Stai con me, perché dico di sì, sto con te, non ho niente da fare, sai che c'è, non mi incanterai più su di me, sono vane tutte le bugie. Lascia stare, non parlare, non mi puoi convincere che è normale far soffrire, che la vita è tutta qua. Voglio credere che da questa prigione che tu chiami amore io rinascerò. Rinascerà.